Bentornati, bentornate. Il programma Letture, dopo mesi di silenzio, va avanti. Andiamo avanti con La febbre del ragno rosso. Andiamo avanti con Le città della notte rossa di William Seward Burroughs. E siamo arrivati al capitolo Berrettino da cavallo per cavalcare. Ora un po' di musica e ci sentiamo fra pochissimo. Dedicare questo podcast a una persona molto speciale che fa gli anni, quindi abbiamo chiamato Nicolas Jaar a suonare live qua con noi e lo ringraziamo. Grazie, grazie mille Nicolas, questa è Mi Muller, tutta per voi. Ci addentriamo nel nuovo capitolo del libro e intanto ringraziamo sempre Nicolas Jaar per aver deciso di rimanere con noi tutta la puntata, quindi avremo una selezione molto molto dettagliata di quella che è la sua musica. E iniziamo con Berrettino da cavallo per cavalcare, per cavalcare. Il giorno dopo, quando arrivammo in ufficio, c'era un telegramma di Dimitri. Ho in custodia sospetto che ha assistito a morte di Jerry Green. Stop. Telegrafi si desidera interrogare sospetto. Stop. Prendemmo il primo aereo per Atene e scendemmo all'Hilton. Dimitri mandò una macchina a prenderci. Jim era un po' rigido quando si strinsero le mani nell'ufficio di Dimitri. Aria condizionata, tappeto blu da una parte all'altra, una scrivania, poltrone di cuoio, una foto del Partenone alla parete. Tutto lindo e impersonale, come una camera del Hilton. Dimitri ha sollevato un sopracciglio. Credo di capire che lei disapprova la nostra politica, Mr. Brady. Per conto mio, disapprovo qualsiasi politica. La prego di capire che io non ci ho guadagnato niente da questa indagine. I miei superiori politici vogliono lasciar perdere tutta la storia. Qualche degranato straniero. È male per il turismo. Jim arrossì, corrucciato, e si guardò le scarpe, girò un piede di traverso. «Cosa mi dice di questo testimone che ha?» domandai. Dimitri si appoggiò allo schienale della sedia, dietro la scrivania, e riunì le punte delle dita. «Ah, sì, Adam North, il testimone perfetto. È sopravvissuto alla sua perfezione, perché era stato di fermo. La mattina in cui il ragazzo Green fu ucciso, 18 settembre, il giovane North venne arrestato con un quarto di oncia di eroina in tasca. Quando ho visto il rapporto del laboratorio, ho ordinato che fosse messo in isolamento. L'eroina che di solito comprava dagli spacciatori di strada era circa il 10%. Questa era quasi al 100%. L'avrebbe ucciso in pochi secondi. Beh, se l'avrebbe ucciso per farlo tacere su qualcosa, perché farglielo sapere prima?» chiese Jim. Una domanda complicata. Lui era una specie di macchina fotografica da cui si poteva impressionare e sviluppare una pellicola. Ma prima le ossa, poi la carne. Adam North era stato avvicinato da qualcuno. Dimitri mi lanciò un'occhiata. Alla sua descrizione di Martin Bloom, e gli era stato offerto un quarto di oncia di eroina più indennità di $1,000 per pagare in due rate e per assistere a un rituale comprendente una finta esecuzione. Era sospetto. Dimitri accese un magnetofono. «Perché io?» disse una stupida, aspra voce giovanile. Continuò. «Allora, questo personaggio da fumetti dice che io sono un perfetto. Un perfetto cosa?» gli chiedo io. «Un perfetto testimone», mi dice lui. «Ha in mano 5 bigliettoni». «Beh, d'accordo», dico io. «Ma c'è una condizione», dice lui. «Devi promettere di astenerti dall'eroina e da ogni altra droga per 3 giorni prima della cerimonia. Devi essere in condizioni pure». «Parola di Boy Scout», gli ho detto, e lui mi dà la grana. «Ma una cosa ancora», mi dice. «Mi dà una foto a colori di un ragazzo dai capelli rossi, che mi assomiglia un po'. Questo è il soggetto. Ti devi concentrare su questa foto per i prossimi 3 giorni. Solo per i prossimi 3 giorni. Allora gli dico, certo, e me ne vado. E lo credereste? Con $500 in tasca non posso comprare della merda in nessun posto e in nessun modo. Così, quando lo chauffeur viene a prendermi in una Daimler, sto da cani». Dimitri spense il magnetofono. Venne portato in una villa fuori Atene, dove assistette a una bizzarra cerimonia, che culminò con l'impiccagione del ragazzo Green. Tornato ad Atene, gli fu dato il quarto d'oncia di eroina. Stava tornando all'appartamento della sua ragazza, quando venne fatto l'arresto. «Ancora non capisco», disse Jim. «Lo tirano dentro come testimone, Dio sa perché. Poi lo fanno fuori per chiudergli la bocca». «Non intendevano chiudergli niente, intendevano aprirlo ed estrarre il film». Adam North era il testimone perfetto, ha l'età di Jerry, nato nello stesso giorno, e gli assomiglia abbastanza ad essere un fratello gemello. Lei conosce i sintomi della disintossicazione da eroina: la dolorosa intensità delle impressioni, leggera febbre, orgasmi spontanei, una pellicola sensibilizzata. È un'overdose di eroina, è la più facile delle morti, così le immagini registrate sulla sensibile pellicola della disintossicazione vengono via senza distorsione in un'overdose di eroina». «Capisco», disse Jim. «È tutto qui sul nastro, ma credo che vorrete vedere questo ragazzo. E vi devo dire, un ritardato». Mentre scendevamo con l'ascensore, Dimitri continuò. «C'è ragione di sospettare una psicosi latente, mascherata dalla sua tossicomania». «Sta prendendo qualche farmaco?» domandai. «Sì, metadone per via orale. Non voglio che i suoi disturbi affiorino qui». «Vuol dire che potrebbe diventare un fardello pubblico?» gli chiesi. «Peggio, peggio ancora. Diventerebbe un rischio sanitario». Vedemmo Adam North in uno dei parlatoi, sotto le luci fluorescenti, un tavolo, un magnetofono, 4 sedie. Era un bel ragazzo biondo con gli occhi verdi. La somiglianza con Jerry era notevole. Però, mentre Jerry era descritto come molto vivace e sveglio, questo ragazzo aveva un che di molto molle, vacuo e stupido. Sonnolente e pigro come una lucertola malamente svegliata dall'ibernazione. Dimitri spiegò che eravamo investigatori assunti dalla famiglia di Jerry e avevamo qualche domanda. Il ragazzo guardò giù, davanti al tavolo, davanti a sé, e non disse assolutamente niente. «Quest'uomo che le ha offerto il quarto d'oncia di eroina, lo ha mai visto prima?» domandai. «Sì», Quando era appena arrivato qui mi ha portato da uno spacciatore. Credo che prenda una percentuale. Com'era? Faccia grigia, butterata, statura media, massiccio, strana giacca color purpurea e catena all'orologio. Come se fosse appena venuto fuori dagli anni 90 dell'Ottocento. Sembrava che non sentisse il caldo. Nient'altro? Uno strano odore che aveva addosso, come qualcosa di marcio in un frigorifero. Per favore, mi descriva il rituale a cui ha assistito, gli dissi. Scusatemi, interruppe Dimitri. Guardò il ragazzo e disse: Ganimede, facendo schioccare le dita. Il ragazzo rabbrividì e chiuse gli occhi, respirando a fondo. Quando parlò, la sua voce era alterata fino a essere irriconoscibile. Ebbi l'impressione che stesse traducendo le parole di un'altra lingua, un idioma di risolini e gorgogli da tacchino e tuba refusa e oggioli e trillì. Ganimede Hotel. Imposte chiuse. Nudo sul letto. La foto di Jerry. Sta diventando viva. Guardarla mi manda in calore. So che è in una stanza come questa. E aspetta. C'è un odore nella stanza. Il suo odore. Riesco a fiutare quello che sta per accadere. Nudi con maschere d'animali. Maschere di demoni. Io sono nudo, ma non ho una maschera. Siamo in piedi su un palcoscenico. Un cappio trasparente. Si dimena come una biscia. Jerry viene fatto entrare da una sorella gemella. Difficile da distinguerli. C'è su tutto una foschia rossa e l'odore. Il ragazzo piagnucolava e si dimenava e si grattò l'inguine. Gli sta legando le mani dietro con una sciarpa rossa. Gli ha messo un cappio al collo. Sta crescendo dentro di lui. Il cazzo gli sta venendo su e diventa tutto rosso fin giù alle unghie dei piedi. Noi la chiamiamo un'erezione rossa. Adam ridacchiò. La piattaforma gli cade via di sotto e resta appeso lì a scalciare. Viene 3 volte di seguito. La sua sorella gemella prende il seme in una bottiglia. Il seme crescerà. Il ragazzo aprì gli occhi e guardò incerto verso Dimitri, che scosse la testa in un mite rimprovero. Credi sempre che tutto questo sia successo davvero, Adam? Beh, ma certo, dottore, io me lo ricordo. Ti ricordi anche i sogni? La tua storia è stata controllata e si è scoperto che è senza fondamenti di fatto. Non c'è quasi stato bisogno, visto che sei stato sotto costante sorveglianza dal momento del tuo arrivo ad Atene. L'eroina che prendevi è stata analizzata. Contiene certe impurità che possono causare una psicosi temporanea con bizzarre allucinazioni, proprio come quelle che descrivi. Stavamo cercando i grossisti che distribuivano questa eroina velenosa. Adesso li abbiamo. Il caso è chiuso. Ti consigliamo di dimenticare tutto. Sarai lasciato domani. Il consolato ha combinato per farti guadagnare il viaggio verso casa, lavorando su un mercantile. Il ragazzo venne condotto via da un infermiere vestito completamente di bianco. «E gli altri testimoni, quelli con le maschere?» chiese Dimitri. «Avevo immaginato che avessero tutti i requisiti per un'eliminazione immediata. Un carter per Londra, partito da Atene il giorno dopo, l'assassinio rituale si è schiantato in Jugoslavia. Non c'è neanche un superstite. Ho controllato per intero la lista dei passeggeri con i miei contatti nella polizia inglese. 7 dei passeggeri appartengono a un culto druidico sospettato di violare tombe e compiere riti di magia nera con sacrifici animali. Uno degli animali sacrificati pare fosse un cavallo. Un atto simile è notevolmente più sconvolgente di un sacrificio umano per la sensibilità britannica. Hanno sacrificato un cavallo? È una vecchia pratica sciita. Un giovane nudo monta il cavallo, gli taglia la gola e lo cavalca finché va a terra. Pericoloso, così mi dicono. Un po' come i vostri rodei americani. Ma la sorella gemella che lo ha impiccato? Jim domandò. Dimitri aprì una cartella. È un travestito, Arn West, all'anagrafe Arnold Atkin, nato a Newcastle sul Tyne. Un costosissimo assassino, d'alto bordo, specializzato in tecniche sessuali e veleni. La sua parcella di consulenza per ascoltare una proposta è di $100,000 non rimborsabili. Conosciuto come il colpetto, il polipo blu, il mantello da sirena. E adesso vorreste voi, signori, accettare di cenare con me? Mi dipiacerebbe sentire da lei, Mr. Snide, la storia completa e non una versione censurata a uso della così limitata mentalità poliziesca. La casa di Dimitri era vicino all'ambasciata americana. Non era il tipo di casa che ci si potrebbe aspettare da un ufficiale di polizia con un modesto stipendio. Occupava quasi mezzo isolato. Il giardino era circondato da altre mura, con in cima 3 metri di filo spinato. La porta sembrava un cavò. Dimitri mi guidò giù per un corridoio delle piastrelle rosse in una stanza tappezzata di libri. Porte, finestre si aprivano su un patio lungo circa 20 metri e largo 15. Si vedeva una vasca, alberi e fiori. Jim e io ci sedemmo e Dimitri preparò da bere. Diedi un'occhiata ai libri. Magia, demonologia, un certo numero di libri di medicina, uno scaffale di egittologia e libri sui Maya e sugli Aztechi. Dissi a Dimitri quello che sapevo e quello che sospettavo. Ci misi mezz'ora circa. Quando ebbi finito, rimase seduto un po' per il silenzio, abbassando lo sguardo sul suo bicchiere. «Beh, Mr. Snide», disse alla fine, «si direbbe che il suo caso sia chiuso. Gli assassini sono morti». Ma quelli erano solo precisamente servi, manovalanza, killer a pagamento, ricompensati con una speciale forma di morte. Lei riconoscerà il rito come la cerimonia egizia del tramonto dedicata a Set, un sacrificio che coinvolge insieme sesso e morte, è la più potente proiezione di intenti magici. I partecipanti non sapevano che uno degli intenti che stavano proiettando era la loro stessa morte in un incidente aereo. Ma scusi, non c'è neanche un indizio di sabotaggio? No. Ma non era rimasto molto dell'aereo. L'incidente è avvenuto fuori Zagabria. Il pilota era fuori rotta e volava basso. Sembrava un errore del pilota. Ci sono naturalmente delle tecniche per produrre simili errori. Ha sempre intenzione di continuare con questo caso? Di trovare i pezzi grossi? E perché esattamente? Senta, colonnello, questo non è cominciato con il caso Green. Questa gente sono vecchi nemici. Non abbia fretta di sbarazzarsi dei vecchi nemici. Cosa farebbe senza di loro? Provi a vedere le cose da un'angolazione differente. Lei è assunto per trovare un omicida. Consegna un assassino a pagamento. Non è soddisfatto. Vuole trovare l'uomo che lo ha ingaggiato. Trova un altro servo. Non è soddisfatto. Trova un altro servo e un altro. Su, fino a Mr. e Mrs. Big, che si rivela essere ancora un altro pezzolato, un servo di forze e poteri che lei non può raggiungere. Dove si ferma? Dove tira la riga? E qui aveva ragione. Continuò. Consideriamo quello che è successo qui. Un ragazzo è stato impiccato con scopi rituali e magici. È così sconvolgente? Lei ha letto gli abitanti delle paludi? Annuì. Beh, la lenta morte per impiccagione di una persona nuda durante le feste di primavera ogni anno. Queste feste, in limiti ragionevoli, potrebbero servire come valvola di sfogo. Dopotutto succede di peggio tutti i giorni. Certamente è una questione minore da paragonare a Hiroshima, al Vietnam, e all'inquinamento generale, alla siccità, alle carestie. Deve mantenere una visione ampia e generale delle cose. Potrebbe non aver affatto limiti ragionevoli. Potrebbe diventare pandemica. Sì. Gli Aztechi sono andati un po' fuori controllo, ma lei si riferisce alla sua teoria virale. Lo abbiamo chiamato virus B23, la febbre dell'impiccagione, e lei sta estrapolando da 2 casi che potrebbero non essere collegati. Peter Winkler può essere morto per qualcosa di completamente diverso. So che lei non vuole pensare a un'eventualità simile, ma immaginiamo che una simile epidemia si verifichi. Fece una pausa. Quanti anni aveva Winkler? Ma poco più di 50. Ah, Jerry era un portatore di questa malattia. Non è morto direttamente. Winkler, che aveva 30 anni di più, è morto in pochi giorni. Beh, ci sono certi che pensano che una pestilenza selettiva sia la soluzione più umana al sovraffollamento e alle conseguenti impasse di inquinamento, inflazione ed esaurimento delle risorse naturali. Un'epidemia che uccide i vecchi e risparmia i giovani, meno una ragionevole percentuale. Uno potrebbe essere tentato di lasciare che un'epidemia simile segua il suo corso, anche se avessero il potere di fermarla. Colonnello, ho il presentimento che quanto potremmo trovare nei laboratori del Sud America farebbe sembrare la storia che abbiamo ascoltato da Adam North, un tranquillo romanzo gotico per vecchi signori e bambini. Proprio ciò che stavo cercando di dire, Mr. Knight. Ci sono rischi che non vale la pena correre. Ci sono cose che è meglio lasciare invisibili e ignote. Ma qualcuno deve vederle e saperle prima o poi, altrimenti non c'è protezione. Quel qualcuno che deve vedere e sapere potrebbe non essere lei. Pensi alla sua vita e a quella del suo assistente. Potrebbe non aspettare a voi agire in questa faccenda. Effettivamente, lei non ha tutti i torti. No, davvero, disse Jim. Mr. Schneid, lei considera Hiroshima un crimine? Beh, sì. Ha mai avuto la tentazione di mettersi a caccia di pezzi grossi? No, non è affar mio. La stessa considerazione può andar bene qui. C'è tuttavia una cosa che lei può fare. Trovare la testa ed esorcizzarla. Io l'ho fatto col mio corpo. Mr. Green ha consentito alla sua sepoltura qui nel cimitero americano. Attraversò la stanza. Arrivò un armadietto chiuso a chiave e tornò con un amuleto. Simboli runici su quella che sembrava pergamena in un medaglione di ferro. Non pergamena, pelle umana, mi disse. La cerimonia è molto semplice. La testa viene messa in un cerchio magico su cui sono stati segnati i punti cardinali. Ripeta 3 volte. Ritorni all'acqua, ritorni al fuoco, ritorni all'aria, ritorni alla terra. Poi tocchi la sommità della testa, la fronte e un punto dietro l'orecchio destro. In questo caso era mancino con l'amuleto. Bussarono alla porta e una donna greca di mezza età con i baffi spinse dentro un carrello con la cena a base di triglie e insalata. Dopo la cena e un brandy ci alzammo per accomiatarci. Ho detto che potrebbe non aspettare a voi agire. D'altra parte potrebbe aspettare a voi. Lo saprete voi se sarà così e avrete bisogno di aiuto. Posso darvi un contatto a Città del Messico. 18 Callejón de la Esperanza. Ricevuto, disse Jim. Il mio autista vi riporterà a Lilton. Il bicchiere della staffa? No, disse Jim. Ho mal di testa. Vado su in camera. Io do un'occhiata al bar. Ci vediamo fra un attimo. Avevo visto qualcuno che conoscevo nell'ambasciata americana, probabilmente della CIA. Sentivo che voleva parlarmi. Alzò lo sguardo. Quando entrai, annuì e mi invitò a bere con lui. Era giovane, magro, capelli rossicci, occhiali, raffinato e un'area da università. Fece segno al cameriere e io ordinai una birra. And I know Quando il cameriere portò la birra e se ne tornò al bar, l'uomo si chinò in avanti, parlando a voce bassa e precisa. Una cosa tremenda quel ragazzo Green. Cercava di sembrare addolorato e solidale, ma i suoi occhi erano freddi e scrutatori. Dovevo stare ben attento a non dirgli qualcosa che già non sapesse. Sì, veramente una cosa orrenda. Credo di capire che è stato, beh, un delitto sessuale. Cercava di sembrare imbarazzato e un tantino salace. Si guardava intorno, imbarazzato e salace quanto un pesce cane. Era freddo e sospettoso come la contessa del Gulpa. Ricordai che era ricco. Qualcosa del genere. Deve essere stato terribile per la famiglia. Non gli ha detto la verità? Sta in guardia, Clem. Non sono sicuro di sapere la verità. La storia che in realtà gli ho raccontato è naturalmente una faccenda riservata. Naturalmente, etica professionale, senza traccia di ironia scoperta, fece in modo di comunicarmi un ampio e gelido disprezzo per me e la mia professione. Io annuii semplicemente. E lui continuò. Strano tipo, Dimitri. Sembra molto efficiente. Molto. Non sempre conviene essere troppo efficienti. I cinesi dicono che è bene fare uno sbaglio ogni tanto. Sapeva che Dimitri ha dato le dimissioni? Non me lo ha detto. Era l'oggetto di gelosie professionali. Agli arrivisti dà fastidio qualcuno con mezzi indipendenti che non ha veramente bisogno di lavorare. Io ne so qualcosa. Sorrise, con rammarico, cercando di prendere un'aria fanciullesca. Beh. Forse lei può evitare l'errore di iperefficienza. Questa se la fece scivolare. Credo che questi hippie si mettano in qualunque strano culto sessuale estremo. Io ho trovato le loro pratiche sessuali piuttosto noiose e ordinarie nel complesso, in realtà. Lei lo ha letto, lo shock del futuro, no? Lo scorso. Vale la pena di guardarlo attentamente. Ho trovato più interessante la bomba orologeria biologica. Ignorò anche questa. Dimitri, il suo cincischiare con la magia, non gli è servito molto, in termini di carriera, voglio dire. Magia? Ma non mi sembra il tipo. Avevo capito che sapeva che ero appena stato a casa di Dimitri a cena. Speravo che gli dicessi qualcosa della casa, libri, arredi. E questo significava che lui non c'era mai stato. Un lieve spasmo di esasperazione gli passò sul volto come un tremito sismico. Il volto gli tornò morto e liscio come una maschera di marmo e disse lentamente: Il suo assistente non è terribilmente giovane per il genere di lavoro che fate? Lei non è un pochino giovane per il genere di lavoro che fate? Decise di ridere. Beh, largo ai giovani! Un'altra birra, grazie! No, grazie. Devo prendere un aereo presto. Mi alzai. Beh, buonanotte, Skipper. Decise di non ridere. Annuì solo in silenzio. Mentre uscivo dal bar, sapevo che si stava sforzando di non seguirmi con lo sguardo. Non c'erano dubbi. Ero stato avvertito, in termini non equivoci, di lasciar perdere e starne fuori. Non mi era piaciuto. Specialmente arrivando quando avevo quasi deciso di lasciar perdere e starne fuori. E non mi piaceva vedere Jim minacciato da un moccioso bullo della CIA. La mafia non avrebbe potuto essere molto più zozza. Aiutante, vostro giovane giovane, avete mai guardato un libro chiamato Lo shock del futuro? Eh? Quando salii in camera, trovai la porta aperta. Come entrai, mi investì una folata dell'odore di febbre, l'acre odore animale del corpo nudo senza testa di Jerry. Jim era sdraiato sul letto coperto da un lenzuolo fino alla vita. Quando lo guardai, sentii una fitta salirmi dietro il collo. Stavo guardando la faccia di Jerry, che aveva un ghigno lupesco. Gli occhi spruzzavano un fuoco verde. Capitolo seguente. Port Roger. Le città della notte rossa, William Burroughs. Pagina del taccuino di Strobue. L'assenza dei giochi di prestigio è la distrazione e il depistaggio. Se qualcuno si può convincere di avere, mediante la propria perspicacia, indovinato i vostri scopi nascosti, non cercherà oltre. Quanto sa o quanto sospetta? Sa che la cattura era predisposta. Immagina un'alleanza tra i pirati e Pemberton per il commercio dell'emisfero occidentale, piantagioni di oppio in Messico e di altri prodotti ora importati dal Medio ed Estremo Oriente. sospetta o presto sospetterà che questa alleanza possa evolversi in una rivoluzione politica e militare e secessione da Inghilterra e Spagna. Che cosa pensa ci si aspetti da lui? Il ruolo di ermaiolo e inventore, il che in parte è vero, non deve sottovalutarlo, ha già letteralmente visto attraverso Mr. Thomas. Quanto tempo passerà prima che veda attraverso gli altri? Bisogna stare attenti a Kelley. I servi più necessari sono sempre più pericolosi, è un'astuta e subdola piccola bestia. Noah scrive che a me interessa stampare il suo diario per qualche ragione. Ha qualche sospetto di qualche ragione? Bisogna tenerlo molto occupato come armaiolo in modo che non si accorga del suo ruolo primario. Quanto gli ci vorrà per scoprire che il capitano Jones e il capitano Nordenholz sono intercambiabili? Per afferrare anche il pieno significato del suo stesso nome, per vedere chi sono e per vedere che io sono i gemelli da Fuentes. Infine, per sapere che io sono anche sciarpa intorno al collo, immediatamente combinato tra loro, voltandosi a ghignare e ammiccare dall'arsenale. Io sono il capitano Strobue, una snella sirena, giacca scintillante al sole, flauto da una stella lontana delle loro natiche. Adesso ero, fumo, chiamato Kelley, pallido nella mia mente insieme a un sì. Capelli rossicci, membro eretto marciando intorno fu liberato. Ragazzi danzatori alla musica suonavano le loro secche, dimenando il pallido inguine a luci contorti. Adesso abbiamo una doppia ciurma giù, nella zona del Mar Rosso. La storia cominciò con una lite. Sentenze di impiccagione. Le sentenze depredava mercantili che portavano il carico bellissimo impiccato tornato in vita. Donne che danzavano lascivamente e assicuravano protezione contro i loro corpi una volta che uno fosse stato salvato. Affermava di aver appreso il sorriso della forca, ansimando con le labbra stirate. Si levò eretto. Egli acculò cappio e nodo, piedi attraverso il pavimento, spiriti intorno al suo collo, spruzzando sei. Oggi siamo arrivati a Port Roger sulla costa di Panama. Una volta era Fort Pheasant e la usavano come base per i pirati inglesi 60 anni fa. La costa qui è molto pericolosa per la navigazione dei grandi vascelli a causa di bassi fondi e scogliere. Port Roger è uno dei pochi porti profondi, ma è così difficile arrivarci che solo un navigatore con la conoscenza esatta del passaggio può sperare di farlo. Il litorale è una lontana chiazza verde sulla nostra dritta. Strobue, Thomas scrutano l'orizzonte con i cannocchiali. Guarda, guarda, c'è la costa! I ragazzi mormorano nervosamente. Cattura per gli spagnoli significa tortura o, nei migliori dei casi, schiavitù. Se ci dovesse sopraffare una nave spagnola, abbandoneremmo la nave sulle scialuppe di salvataggio, lasciando il Great Weight agli spagnoli. Chi salirà a bordo riceverà una sorpresa, perché ho sistemato un congegno che farà esplodere l'intero carico di polvere appena le porte della Siva saranno aperte. Adesso la nave vira e si dirige verso terra. Strobue, nudo, fino alla cintola, ha preso il timone, il corpo esile, carico di tensione. Due ragazzi stanno facendo scandagli su entrambi i lati e la nave scorta a 100 metri dietro a noi. Stiamo navigando in uno stretto canale tra le scogliere. Mr. Thomas e Kelley gridano ordini mentre la nave scivola come un serpente su una striscia di acqua azzurra. Il litorale è sempre più chiaro. Appaiono lentamente alberi e colline basse in un tremolio di caldo. Un'impercettibile vibrazione come una corda d'arco che scatta mentre la nave scivola in una profonda insenatura blu e a qualche centinaio di metri dalla riva, dove le onde si infrangono su una mezzaluna di sabbia. Caliamo l'ancora, a meno di 100 metri dalla spiaggia, con la Siren a una pari distanza dietro a noi. Dal porto la città si scorge difficilmente, essendo riparata da una fitta vegetazione di bambù e trovandosi tra alberi e liane. Ho avuto la strana impressione di guardare un quadro di una cornice d'oro. Le due navi all'ancora della quiete insenatura blu, una fresca brezza del mattino e scritto sotto la parte bassa della cornice Port Roger, 1 aprile 1702. gli alberi si diradano e indiani in perizoma portano in acqua delle barche. Le barche sono sistemate legando una zattera tra due canoe scavate in tronchi d'albero che servono da pontoni. Queste barche stanno alte sull'acqua e sono sospinte da due rematori rivolti in avanti, alla maniera dei gondolieri veneziani. Questo giorno si presenta alla memoria come una serie di quadri. Primo quadro. I rematori. Sottili corpi in rosso rame, tesi contro i remi mentre le barche scivolano avanti in uno spruzzo argenteo di risacca e pesci volanti su uno sfondo di spiagge e palme. Secondo quadro. Scaricare. Gengive rosso vivo, denti bianchi aguzzi, natiche nude mentre il carico viene fatto passare giù dalla fiancata, con gran ridere e cantare. I ragazzi inventano canzoni sul carico, mentre viene fatto passare fino alle zattere e portato a riva. Queste canzoni, tradotte da Kelly, che mi si è accostato nel suo insinuante modo da fantasma, sembrano piattamente idiote. I ragazzi stanno scaricando barilotti di polvere. Ci offriamo di aiutarli, ma gli indiani cantano. Mani d'uomo bianco, scivolose come banane marce. E adesso fanno passare sui barilotti di polvere. Questo va boom boom in culo alla questione. Chiedo a Kelly, che cos'è questa questione? Abbreviato per Inquisizione. Un ragazzo tiene su un barilotto di oppio. Spagnolo, non prendere questo. Merda venire in calzoni. Molto sporco, muy sucio. E a Kiki sta venendo duro perché sa che gli guardo il culo quando si china per oppio. Stavo pensando a Maria. Togliti il perizoma e mostraci Maria. Kiki arrossisce, ma deve obbedire alle regole di questo gioco. Si toglie il perizoma, sorride timido, svelando i meravigliosi genitali rosa e porpora. Palle tese, cazzo che si tira in su. Il suo odore floreale riempie la stiva. Maria, suo culo, lo fotto e spruzza a sei piedi. Si guarda intorno, sfidando i ragazzi seduti sui barili di oppio. Alcuni ragazzi tirano fuori pepite d'oro da piccole borse alla cintura, industriosamente ricavate da testicoli spagnoli. Lui lo ama tanto che lo tengo sulle sue palle. Presto divento ricco come lui. Dovrebbe essere facile per un bastardo come te. Mettiti la tua merda gialla dove hai la bocca. Fotti sorelle. Io vedete. Te farlo con i miei occhi. Una zona viene spezzata e misurata con cura e si mettono giù le scommesse. Kiki si china, le mani sulle ginocchia. L'altro ragazzo, che sembra un fratello gemello di Kiki, stappa un piccolo flacone a forma di fallo in corallo rosa e una fragranza penetrante riempie la stiva. Già geme dagli odori di oppio, hashish e acqua salata che asciuga sui giovani corpi. L'esalazione viene dal recipiente di corallo rosa. È un pesante odore di muschio dolce e marcio simile a un cadavere profumato o al sentore che si avverte dove si è abbattuto un fulmine. L'unguento luccica nella fioca luce della stiva, dove rosse membra si muovono pigramente come pesci in acqua nera. Adesso il ragazzo strofina l'unguento lucente su per il culo di Kiki e Kiki rabbrividisce e scopre i denti mentre l'altro ragazzo lo fa scivolare dentro ed entrambi si accendono e splendono. Per un attimo la stiva è illuminata a giorno, con ogni faccia e corpo chiaramente delineato. Thank you. Quadro numero 3. Ragazzi radioattivi. In giro per bar radioattivi, Kelly mormora acido. Bar radioattivi gli chiedo. Già, è il vecchio gioco della guerra da qui all'eternità. Magari già sai, i ragazzi radioattivi sono un tipo speciale di fantasmi. Quando ne vedi uno muori poco dopo. Naturalmente ci si può abituare a tutto e i ragazzi con la luce sono una robetta d'ordinaria amministrazione per me. Un buon ragazzo radioattivo, un po' forte, può illuminare una sala con un soffitto di 6 metri. Uno dei migliori viveva in un castello irlandese, che era il fantasma di un ragazzo di 10 anni strangolato dalla sua folle madre. Quello ha ucciso 3 ministri e un vicario. Così i ragazzi furbacchioni vengono a sapere di questa buona cosa e mettono su il piano RR per sistemare le persone chiave del nemico. Non sanno nemmeno quali pulsanti premere. Il piano RR viene scaricato a noi sergenti segreti. Questi ci impiccano, quasi ci annegano, quasi ci strangolano, coi dottori a darci pacche. Com'è stato? È divertente essere radioattivo? Metti la tua merda dove erano i ragazzi. Ragazzi radioattivi sono una valuta speciale della morte. Il fantasma manca di acqua. E una fragranza penetrante riempì il piano RR. Mezzi corpi, mezzi impiccati, l'odore ci palpeggia. Come un odore di muschio dolce e marcio. Poi qualche elegantone dell'ultima ora ti tira via il culo radioattivo da sotto e se lo svigna appena in tempo. Fatti nella vita dell'esercito. Stappa il vecchio gioco dell'esercito fottendo un sergente maggiore come me. Le sue parole e anche il suo modo di parlare mi sembravano dapprima del tutto insoliti, eppure in qualche modo richiamavano dei bellissimi ricordi. Come un attore può richiamare alla memoria certe sensazioni sentendo delle battute ormai dimenticate da una parte recitata, in un posto remoto, tempo e tempo fa. Quarto quadro. Il capitano Nordelbortz sbarca a Port Roger. Eccoli lì, in piedi, su un molo in rovina lasciato dagli inglesi, in un uniforme di una sua invenzione. È affiancato Opiums Jones, i gemelli De Fuentes e il capitano Stroboe, tutti con l'aria di una troupe di attori girovaghi, un po' in fase già, ma uniti, nella determinazione di portare a termine i ruoli loro assegnati. I ragazzi si trascinano dietro di loro, portando un assortimento di sacchi, valigie e bauli. Attraversano la spiaggia e spariscono uno dopo l'altro in un muro di foglie. Io non so cos'è stato a darmi un'impressione così desolata di questa processione, dal momento che tutti devono avere bauli di oro e pietre preziose, ma per un attimo sono apparsi ai miei occhi come attori mal ridotti, con parti grandiose ma senza i soldi per pagare l'affitto. I gioielli e l'oro sono falsi, le quinte rappresentanze sbrindellate e strappalate e il teatro è chiuso da un pezzo. Fui preso da un senso di tristezza e desolazione mentre le parole dell'immortal bardo tornavano alla mia mente. Questi nostri attori, come vi preannunciai, erano tutti spiriti e si sono dissolti nell'aria. Siamo scesi a terra. Il capitano Stroboe ci viene incontro emergendo da un'immagine a puzzle, camicia e pantaloni chiazzati di verde e marrone che si agitano lievemente nella brezza del pomeriggio. Lo seguiamo mentre cammina verso una linea apparentemente ininterrotta di cespugli. Spinge da parte dei rami, rivelando un sentiero sinuoso attraverso un intrico di bambù e rovi. Camminiamo per forse un quarto di miglio, mentre il sentiero si snoda verso l'alto e finisce in un intrico di bambù. Siamo vicinissimi prima che io mi renda conto che i bambù sono dipinti su una porta verde che si spalanca come la porta magica di un libro che ho visto chissà dove tanto tempo fa. La traversiamo ed entriamo nella città di Port Roger. Siamo in una cinta di mura come un vasto giardino, con alberi e fiori, sentieri e stagni. Vedo edifici ai lati della piazza, tutti dipinti in modo da fondersi con l'ambiente così che gli edifici sembrano un semplice riflesso degli alberi e dei rampicanti, e fiori che si agitano nella lieve brezza che sembra scuotere i muri. L'intera scena è incorporea come un miraggio. La prima visione di Port Roger avvenne proprio mentre una caramella all'hashish avevo ingerito a bordo e cominciava a farmi effetto, creando un oiato nella mia mente e l'interruzione del pensiero verbale, seguita da una secca scossa come se qualcosa fosse entrato nel mio corpo. Sentì una folata di profumo e un suono di flauti lontani. Un lungo fresco locale con un banco, dietro il quale stanno tre generazioni di cinesi, un odore di spezie e pesce essiccato, un giovane indiano, nudo, a parte una secca di pelle che gli copre i genitali, si china sul banco e ispeziona un fucile a pietra focaia, si volta e ci sorride, mostrando i denti bianchi e le gengive rosso vivo. Ha una gardenia dietro l'orecchio, il suo corpo emana un dolce odore di fiore. Amache, coperte, macete, coltellacci e fucili a pietra sono sul banco. Fuori, sulla piazza, strobue, mi presenta un uomo dalla forte faccia quadrata, occhi blu chiaro, capelli ricci, grigio ferro. Questo è Waring, ha dipinto la città. Waring mi sorride e mi stringe la mano. Non fa mistero della sua antipatia con il capitano Strobue. Antipatia è forse una parola troppo forte, visto che l'odio è escluso da entrambe le parti. Si incontrano come emissari di due paesi in cui interessi non coincidono in nessun punto. Non so ancora che paesi rappresentino. Finora sono stato così completamente affascinato dalla nonchalance di Strobue che non mi sono mai fermato a chiedermi: ma qual è l'origine di questo portamento? Dove l'ha comprato? Quanto l'ha pagato? Vedo adesso che Strobo è funzionario e così Waring, ma non lavorano per la stessa compagnia. Forse sono entrambi attori che non compaiono mai insieme sul palcoscenico, il loro rapporto limitato a brevi cenni fuori scena. «Vi mostro i vostri alloggi», dice Strobo. Entriamo per un massiccio portone coperto di borchi ed un patio, fresco e ombreggiato da alberi, cespugli, fioriti e una vasca. Il patio è una versione in miniatura della piazza. La mia attenzione è immediatamente attratta da un giovane che in piedi a circa 10 metri dall'entrata sta eseguendo un passo di danza, una mano sull'anca e l'altra sopra la testa. Ha la schiena verso di noi e come entriamo nel cortile si gela a metà passo, voltando la mano a indicarci. In quel momento tutti nel patio ci stanno guardando. Il giovane ruota su se stesso e viene verso di noi. Ha una casacca di seta porporea, aperta sul davanti e le sue braccia sono nude fino alle spalle. Le braccia e il torso sono di colore bruno scuro, snelle e poderose, e si muove con la grazia di un ballerino. È di tipo scuro, con i capelli neri e ondulati. Un occhio è grigio-verde, l'altro bruno. Una lunga cicatrice scende dallo zigomo sinistro al mento. Fa una parodia di attenti di fronte al capitano Strobue, che lo riceve con un suo calmo sorriso enigmatico. Poi il giovane si volta verso Bert Hansen. «Ah, tu sei il cocco di casa!» E annusa. Il profumo dell'oro è sempre il benvenuto qui. Noto che può essere cordiale e amichevole, da un occhio e nello stesso tempo freddo e ironico dall'altro. L'effetto è sconcertante al massimo. Bert Hansen, non sapendo come reagire, sorride a disagio. Il suo sorriso è immediatamente imitato dal giovane con una tale precisione che per momento sembra che si siano scambiati di posto. Arruffa i capelli del mozzo di cabina. Un mostriciattolo irlandese, apaco, dice qualcosa in portoghese. Capisco che è il buffone del reggimento, o della nave, o il maestro cerimoniere. Apaco mi dice che il suo nome è Juanito. Non dubito che Juanito sappia, se necessario, corroborare la sua lingua tagliente col coltello o coltellaccio. Adesso è il mio turno. Tendo la mano, ma anziché stringerla, la volta e finge di leggerla. Stai per incontrare un avvenente sconosciuto. Fa segno da sopra la spalla e chiama Hans. Un ragazzo in piedi di fianco alla vasca che butta pezzetti di pane ai pesci si volta e cammina verso di me. Indossa soltanto pantaloni blu. È senza camicia e scalzo, con i capelli gialli e gli occhi azzurri. Il suo torace è abbronzato e liscio, senza peli. Noha, l'armaiolo. Ti presento Hans, l'armaiolo. Hans annuisce i talloni e fa un inchino mentre ci stringiamo la mano. Mi invita a stare nella sua stanza. Tutto il patio è circondato da una costruzione di legno a due piani. Le stanze al secondo piano si aprono su un portico che corre tutto intorno al piano superiore e sporge sul pian terreno. Le stanze non hanno porte, ma una cima all'ingresso. C'è un rotolo di zanzariera che viene abbassata al crepuscolo. Le stanze sono nude, celle dai muri imbiancati con ganci per appendere amache e attaccapanni di legno. Porto la mia roba in una stanza al secondo piano e Hans mi presenta un ragazzo americano di Middletown che divide la camera con noi. Si chiama Dink Rivers. I suoi occhi grigi, straordinariamente chiari e diretti, mi trasmettono uno shock di sorpresa e riconoscimento come se ci fossimo già incontrati altrove. E per un secondo io sono in un letto di torrente asciutto e lui mi dice: «Se mi vuoi ancora, sarà meglio che tu mi prenda in fretta». Un attimo dopo sono di nuovo nella stanza di Port Roger, ci stiamo stringendo la mano e dice: «Mi fa piacere vederti». Quando mi informo sulle sue attività, dice che si occupa di educazione fisica. Hans spiega che studia e insegna il controllo del corpo. Sa fermare il cuore, saltare da 7 metri, stare sott'acqua per 5 minuti. Hans ghigna. Veniva senza le mani. Quando ho chiesto al ragazzo di darmi una dimostrazione, mi ha guardato focosamente senza sorridere e ha detto che lo avrebbe fatto quando fosse giunto il momento. Ci sono 4 latrine, 2 per il pian terreno e 2 per il piano superiore, con gabinetti che ricevono acqua da serbatoi di acqua piovana raccolti dal tetto. Il patio contiene diverse piante di fico, di arancio, di manghi e avocado, e un sacco di gatti, iguane, scimmie e strani animali teneri dal muso lungo. Al pian terreno c'è una sala da pranzo comune, una cucina e un grande bagno dove l'acqua calda è portata a secchi. È una stanza da bagno in stile arabo conosciuta come Haman. I ragazzi danzatori stanno stendendo delle stuoie sotto il portico, accendendo le loro pipe di hashish e fanno il tè alla menta dolce che bevono continuamente. I giovani cinesi stanno fumando l'oppio. L'intera ciurma della Siren è alloggiata qui. Inglesi, irlandesi, americani, olandesi, tedeschi, spagnoli, arabi, malesi, cinesi e giapponesi. Camminiamo in giro, parlando e presentandoci in mezzo al mormorio di molte lingue. Vecchie conoscenze sono rinnovate e si scoprono legami di lingue e provenienze comuni. Vi sono alcuni ragazzi di New York che sono stati pirati di fiume e viene fuori che conosco Bill, Guy e Adam. 5 enormi nubiani liberati da Nordenholz da una nave negriera, parlando una lingua nota soltanto a loro. Ora viene fatta passare parola attraverso Kelly e Juanito, il buffone, che Nordenholz invita tutti a cena a casa sua. Hans mi guarda con un sorriso elusivo. Spinge il dito dentro e fuori dal pugno. Hans spiega che ci sarà una quantità di donne alla festa che sono venute per farsi mettere incinte.